Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di sindacato e ne parliamo con Giuliano Cazzola. Buonasera Cazzola. Buonasera direttore. Giuliano Cazzola, deputato del Popolo della Libertà, vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera, consigliere politico del ministro Brunetta, è stato docente di diritto della previdenza sociale, ma è stato, forse direi soprattutto, se mi permette Cazzola, anche sindacalista, e quindi in questo libro racconta un po' la sua storia. Una storia che è iniziata quando, Giuliano Cazzola? È iniziata nel lontano 1965, nella primavera del lontano 1965, e si è conclusa nella primavera del 1993. Quindi il libro comincia nel 43 sostanzialmente e finisce nel 93, quando sostanzialmente sono finito anch'io come sindacalista. Ecco, è finito come sindacalista, quindi è un po' la storia del sindacato visto negli occhi di un protagonista. Un protagonista, forse diciamolo subito, che fa anche un'autocritica in questo libro. Beh, sicuramente è un protagonista che ha una nostalgia della casa paterna, che ricorda i tempi epici, i tempi diciamo della ricostruzione del paese, i tempi della riscossa operaia negli anni 60, i tempi diciamo molto discutibili degli anni 70 e 80, e poi finisce con la frase diciamo del Gattopardo, no? Noi fummo i leoni e i gattopardi, quelli che verranno dopo saranno gli sciacalli e le iene, insomma, e ritiene appunto che il sindacato dopo il 1993 non faccia più storia ma solo cronaca. Io ho conosciuto dei giganti, i giganti ovviamente erano prodotti dai tempi che avevano vissuto e dai tempi che dovevano vivere, dalle responsabilità che dovevano assumersi, dalle difficoltà che dovevano affrontare, e poi ovviamente sono anche i tempi che fanno gli eroi e sono anche i tempi che fanno le persone normali. Ecco, i giganti erano Lama, Carniti, Benvenuto, ma ancora più indietro Novella, Di Vittorio, Piero Boni, poi ovviamente io parlo anche dei fondatori della CGIL unitaria come Bossi, Pastore, che poi diede vita alla CISL, insomma questi personaggi che in fondo sono un po' i padri del sindacalismo italiano. Ecco, un sindacalismo che ha avuto un ruolo da protagonista, ma che ha avuto già allora le sue sconfitte. Si parla di sconfitta della CGIL alla Fiat già negli anni 50. 1955, elezione di commissione interna della Fiat. La CGIL perde circa 20 punti e non è più il primo sindacato, e questo è tutto sommato anche un segno importante, un segno positivo, perché invece di flagellarsi, di accusare il cattivo padrone, e allora i rapporti con la Fiat, con Valletta non erano certo rapporti facili, e Di Vittorio fa una relazione nel comitato relativo della CGIL dove dice: abbiamo sbagliato, ci siamo allontanati dalla fabbrica, abbiamo sostenuto rivendicazioni di carattere generale quando in realtà il nostro problema era quello di dare delle risposte ai lavoratori nella fabbrica. Di lì cambia la linea politica del sindacato. Tenga presente lei, gli ascoltatori, che la CISL anni prima aveva già teorizzato la contraffazione aziendale, ma la CGIL riteneva che fosse una rottura del fronte unitario, una rottura dell'unità della classe e via di questo passo. Con la sconfitta del 55 cambia indirizzo e nasce sostanzialmente alcuni anni dopo una struttura contrattuale più moderna, più aderente a quelle che sono le esigenze delle imprese e dei lavoratori. L'altra grande sconfitta del sindacato in questo caso, perché tutti i sindacati erano uniti in questa vicenda, è quella dell'autunno del 1980, quando la Fiat mette le carte in tavola, denuncia una situazione di crisi, chiede prima il licenziamento, poi la cassa integrazione di 20.000 rotti lavoratori. I sindacati accusano la Fiat di voler attaccare il sindacato, non capiscono che c'è un passaggio, una svolta produttiva, una svolta epocale, fanno uno sciopero a oltranza dei 35 giorni, poi vengono scioccati dalla manifestazione dei 40.000, Certo. E il giorno dopo firmano l'accordo. Quindi due sconfitte, però ecco, tra queste due sconfitte c'è anche una vittoria epica, quella dell'autunno caldo, quella del 68. Certo. Che, ecco, però il capitolo dedicato all'autunno caldo in questo libro, C'era la morte del sindacato, ha come titolo Fu vera gloria? Sì, perché in effetti fu un contratto da favola, un contratto, pensi che per un settore come la valmeccanica ci fu una riduzione dell'orario di lavoro di 4 ore, nell'arco di validità del contratto. Si arrivò sostanzialmente in tutti i settori a 40 ore di settimanali, no? Si andava da 42 a 44, quindi furono una riduzione d'orario fortissima. Poi ci furono aumenti salariali notevoli, ci fu la parità fra operai e impiegati, ci fu un riconoscimento di diritti sindacali che poi diedero vita anche allo statuto dei lavoratori alcuni mesi dopo. Però non c'è dubbio che l'industria si beccò una febbre da cavallo che sostanzialmente poté recuperare con le svalutazioni competitive, fino a quando le svalutazioni competitive sono state possibili. Da una parte e dall'altra con il debito pubblico, lo ricorda, nel 69 il deficit pubblico era pari al 3,1% del PIL, nel 73 era salito al 7,1%, su 100 lire di entrate pubbliche 7 erano destinate a pagare gli interessi del debito, nel 1980 erano diventate 16 lire e da lì è nata poi la montagna di debito pubblico che l'Italia ora sulle spalle. Quindi chiedersi se fu vera gloria è oggettivo a questo punto, perché da certe scelte dipendono anche certe conseguenze e forse anche da quello che Giuliano Cazzola poi si è un po' convertito. Sì, sì, in effetti io mi sono abbastanza convertito, diciamo, a cavallo fra gli anni 80 e gli anni 90. Io per esempio mi occupavo di politiche sociali, ritenevo che andasse fatto da riforma delle pensioni, che andasse elevata l'età pensionabile, e a un certo punto mi sono trovato a non poter più svolgere un ruolo di rappresentanza, perché uno non può svolgere un ruolo di rappresentanza quando non crede in quello che dice. Quindi sostanzialmente poi nel 93 ci fu un'occasione per uscire dal sindacato, ci siamo lasciati da buoni amici. Purtroppo poi negli anni dopo sono cominciate un po' di polemiche, ecco, che in realtà invecchiando, ecco, vorrei cercare di superare, perché tutto sommato, insomma, io conservo un buon ricordo di quegli anni, che sono stati gli anni, come diceva lei, centrali della mia vita. Ecco, qual è il giudizio di Giuliano Cazzola sul sindacato attuale? Sappiamo che ci sono molti problemi, c'è una divisione di fatto tra CISL e UIL da una parte e CGL dall'altra, soprattutto della FIOM. È qualcosa che ricorda anche momenti del passato, questo? Sì, sì, io un po' ho scritto il libro anche un po' per quella ragione, perché ci sono molte cose che ricordano la divisione degli anni 50. E questo è veramente singolare, perché negli anni 70 i sindacati che facevano riferimento a partiti che erano divisi, che erano in polemica tra di loro, no? C'era la questione comunista, la convenza d'excludendum, però i gruppi dirigenti dei sindacati da loro provarono seriamente e furono a un passo da riuscirci di ricostruire l'unità sindacale che era finita tra il 1948 e il 1950. Oggi che il quadro politico è quello che è, che tutto sommato, diciamo, i sindacati sono più vicini ai partiti d'opposizione che ai partiti di governo, è veramente singolare che ci sia una polemica così aspra e una rottura di rapporti così radicale nei gruppi dirigenti sindacali, quando in realtà le grandi divisioni ideologiche, no, che diedero vita a un movimento sindacale come quello che conosciamo, oggi non ci sono più. Ecco, lo ricorda anche Renato Brunetta, il ministro, che nella prefazione conclude dicendo, appunto ricordando, che la CGIL non ha partecipato all'ultimo accordo sulla riforma della contrattazione, e dice: non è una novità, come dimostra il saggio di Giuliano Cazzola, non è la prima volta nella storia recente che la CGIL tarda ad arrivare, punta i piedi per terra e frena il cambiamento. Il fatto è che adesso, scrive ancora Brunetta, l'attesa è diventata troppo lunga e il ritardo non solo non consente più di spuntare nulla di meglio, ma rischia di trasformarsi in una storica occasione perduta. Cazzola è ovviamente d'accordo. Sì, sono d'accordo, ma io poi, vede, se vogliamo parlare del presente, io sono un po' allibito di come è stata accolta questa proposta della Fiat, non solo su Pomigliano, ma su Fabbrica Italia. E faccio sempre questo esempio: nelle stesse giornate, nelle stesse settimane in cui la Fiat veniva presa a pesce in faccia, insultata da tutti, dai tre quarti dei giuslavoristi italiani che gli dicevano che voleva ripristinare lo schiavismo, e da altre autorevoli autorità, diciamo, di questo paese, e i sindacati, tutti e tre i sindacati, senza colpo ferire, hanno negoziato con la Telecom una riduzione di personale per 3.900 unità, che nel giro di qualche anno diventeranno 6.500. Figurati, io non voglio fare demagogia, capisco che c'è un processo di ristrutturazione delle telecomunicazioni, quindi queste cose si devono fare. Però questa è una cosa, mentre un'azienda che crea lavoro viene spernacchiata in questo paese, un'azienda che distrugge lavoro sostanzialmente se la cava indenne, anzi con i sindacati tutti contenti che dicono che è un successo, questo accordo è un successo. E questo fatto lo lasciamo appunto a testimonianza dell'oggi, con il giudizio che Giuliano Cazzola ne ha dato, giudizi direi innanzitutto interessanti, con cui bisogna confrontarsi, così come interessante sicuramente questo libro, C'era una volta il sindacato, CGL, CISL, UIL nella Prima Repubblica, edito da Boroli, sono 190 pagine per 14 euro, un libro che racconta un'esperienza personale ma che dà dei giudizi che si possono anche non condividere, ma di cui bisogna tener conto sul nostro passato, ma anche in prospettiva, in proiezione sul nostro presente. Grazie Giuliano Cazzola, buon lavoro. Grazie a lei direttore, grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie.